Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia, che vi ricordo è la parola di Dio, quel libro che avete fra le mani, che si chiama Bibbia, che è una biblioteca di libri sacri, o meglio, che diciamo è costituito dagli scritti sacri, è la parola di Dio. Ogni scrittura è ispirata da Dio. Noi lo crediamo e naturalmente lo predichiamo. C'è chi non ci crede e per questo non lo predica. Ma noi sappiamo che appunto gli scritti che compongono la Bibbia, che sono 66, ve lo ricordo questo, perché la Chiesa Cattolica Romana in un concilio decretò l'aggiunta di libri alla Bibbia che non sono sacri e quindi ha manipolato, ha adulterato il canone biblico. Quindi questi 66 libri sono parola di Dio. E noi sappiamo che la parola di Dio è verità. Badate bene, state molto attenti a quelli che vi dicono: la Bibbia contiene la parola di Dio. Questo è un sofisma che usano per trarvi in inganno. La Bibbia è la parola di Dio, quindi bando alle ciance dei tanti cianciatori che ci sono nelle denominazioni evangeliche, che disprezzano la Bibbia, non credono che la Bibbia è la parola di Dio. Loro ritengono che bisogna sempre valutare quello che si legge per capire se è o non è la parola di Dio. Sono tutte ciance queste, appunto, che procedono dal diavolo, e che costoro proferiscono per cercare di ingannare quante più anime possibili. Quindi ricordatevi sempre questo: la Bibbia è la parola di Dio. Dunque veniamo a quello che ho in cuore di predicarvi, capitolo 6 di Primo Corinzi, prima epistola di Paolo ai Santi di Corinto, capitolo 6. Leggerò alcuni versetti, precisamente i versetti che vanno dal 12 al 20. Ora è scritto così. Primo Corinzi, lo ripeto, capitolo 6, dal versetto 12. Dice l'apostolo Paolo, il nostro caro fratello Paolo, così tanto disprezzato da tanti che si definiscono cristiani. Non ve lo dicono chiaramente, ma ve lo fanno capire. Mi si spezza il cuore quando vedo tanti sedicenti cristiani disprezzare il nostro caro fratello Paolo, a cui Dio diede il ministero di apostolo e anche quello di dottore, e a cui elargì nella sua grazia veramente tanta sapienza, di cui noi oggi ancora beneficiamo. Però sapete, gli stolti disprezzano la sapienza di Dio ed è per questo che disprezzano l'apostolo Paolo. E tra questi stolti ci sono tanti, lo ripeto, tanti che si definiscono cristiani, tra cui tanti che veramente non dovrebbero stare dietro i pulpiti ad ammaestrare, perché loro non sono manco pecore. Allora, capitolo 6, dal versetto 12. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Le vivande sono per il ventre per le vivande, ma il Dio distruggerà e queste e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore e il Signore per il corpo. E Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Torro io dunque le membra di Cristo per farne membra d'una meretrice? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce alla meretrice è un corpo solo con lei? Poiché Dio dice, i due diventeranno una sola carne, ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Fuggite la fornicazione, ogni altro peccato che l'uomo commette fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. E non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi, poiché foste comprati a prezzo? Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Ora, quando noi discepoli di Gesù Cristo sentiamo nominare la parola tempio, subito ci viene in mente, naturalmente, il tempio di Salomone. Salomone, figlio di Davide, che costruì appunto a Dio una casa. Così la scrittura dice, Stefano a dirlo questo, ma Salomone fu quello che gli edificò una casa, dice così. Però, proseguendo, dice anche questo, l'Altissimo però non abita in templi fatti da mano d'uomo, come dice il profeta, il cielo è il mio trono, la terra è lo sgabello dei miei piedi. Qual casa mi edificherete voi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Non alla mia mano ho fatto tutte queste cose. Dunque noi ci viene in mente quando sentiamo la parola tempio, anche perché nell'Antico Testamento il tempio che Salomone costruì è nominato veramente molte volte. Però vedete, Stefano precisò, o meglio, ci tenne a precisare questo, che il Dio non abita in templi fatti da mano d'uomo. E questo è la verità, perché il cielo è il suo trono e la terra è lo sgabello dei suoi piedi. Quindi quale casa appunto fatta di mattoni o di pietre o di cemento l'uomo potrebbe costruire all'Iddio Altissimo, che i cieli dei cieli dei cieli non possono contenere? È evidente dunque che, come dice la Sacra Scrittura, il Dio non abita in templi fatti da mano d'uomo. Però vedete, l'Apostolo Paolo ci fa sapere che c'è un tempio, c'è un tempio che è il tempio dello Spirito Santo. E questo tempio è costituito dal nostro corpo. Sì, proprio dal nostro corpo. Questo corpo così debole, questo corpo che appunto col passare degli anni si va sempre più disfacendo, perché appunto la scrittura lo chiama l'uomo esteriore. Sì, proprio questo corpo è il tempio dello Spirito Santo, e quindi noi dobbiamo prestare la massima attenzione a quello che la scrittura ci dice, perché la scrittura, essendo la parola di Dio, non dice una cosa invano o senza uno scopo, senza un obiettivo, e non dice una cosa che non sia vera. Allora il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Allora, il nostro corpo. Ciascuno di noi, appunto, ha un corpo, come ha anche un'anima e uno spirito. Ma qui l'Apostolo Paolo, appunto, specifica che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Il nostro corpo che è, appunto, la tenda, no? dove noi dimoriamo, prima appunto di partirci, di andare alla vita col Signore. Ebbene, questo corpo, perché voi sapete che quando noi moriremo, noi ci dipartiremo dal corpo ed andremo ad abitare con il Signore. Quindi questo nostro corpo è praticamente la nostra tenda, diciamo, temporanea. Allora, questo nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo. Allora, fratelli, quando noi ci guardiamo allo specchio, perché ciascuno di noi comunque sia, si guarda allo specchio, almeno una volta al giorno, ma comunque sia, non importa quante volte uno si guarda allo specchio durante il giorno, una cosa è certa, uno il proprio corpo lo guarda. Allora, questo corpo, chi ce l'ha dato? Perché, sapete, questa è una domanda che può sembrare banale a molti, però facciamocela. Chi ci ha dato questo corpo? Non è forse il Signore? Infatti, chi ci ha formato nel seno di nostra madre? Il Signore. Quindi, questo nostro corpo ce l'ha dato il Signore. Vi ricordate quello che è scritto nel Salmo 139? Ascoltate che cosa disse Davide, il dolce cantore di Israele, per lo Spirito Santo. Dice: poiché sei tu che hai formato le mie reni, si sta rivolgendo al Signore Dio, che mi hai intessuto nel seno di mia madre, io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo meraviglioso, stupendo. Meravigliose sono le tue opere, l'anima mia lo sa molto bene, le mie ossa non te erano nascoste quando io fui formato in occulto e tessuto nelle parti più basse della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che m'erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio. Dunque, vedete, il Dio è colui che ci ha formati nel seno di nostra madre, non solo, poi ci ha anche tratti fuori dal seno di nostra madre. Ma vedete, la scrittura è chiara. Il nostro corpo è opera di Dio. Come Dio abbia potuto veramente formarci nel seno di nostra madre rimane pur sempre qualcosa che noi non riusciamo a comprendere appieno. Ma tant'è, questa è la verità. Il Dio ci ha intessuto nel seno di nostra madre. Allora ecco che questo corpo noi lo consideriamo, perché lo è, opera di Dio. Ed è un'opera meravigliosa. Quando noi veramente consideriamo il nostro corpo, le sue funzioni e così via, noi dobbiamo riconoscere che è un'opera meravigliosa di Dio. I medici che studiano il corpo umano, il funzionamento del corpo umano, rimangono del continuo meravigliati davanti al funzionamento perfetto di questo organismo. Ma perché questo? Perché è opera di Dio. Ma vedete, la scrittura ci dice appunto che il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo. Quindi è, diciamo, la casa dello Spirito Santo. È il luogo dove, appunto, lo Spirito Santo abita. Ora, lo Spirito Santo è Dio. Lo Spirito Santo non è la forza attiva di Dio come diciamo, insegnano i cosiddetti testimoni di Geova. No, lo Spirito Santo è Dio. È Dio come è Dio il Padre e come è Dio il Figliolo. Infatti noi crediamo nel principio della Trinità, che naturalmente, vi ricordo, non è scritto nella Bibbia la parola Trinità, perché sapete che coloro che contrastano la verità ci continuano a dire: ma la Trinità, la parola Trinità non è nella Bibbia. Certo, nella Bibbia non c'è scritto Trinità, ma c'è il concetto della Trinità. Il Padre è Dio, il Figliolo è Dio e lo Spirito Santo è Dio. Per questo noi diciamo che crediamo nella Trinità. Ora, lo Spirito Santo è Dio. Quindi prestiamo molta attenzione a chi abita in noi, a chi dimora in noi. In noi dimora lo Spirito Santo. Infatti noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Ora lo Spirito Santo è Dio. È stato mandato dal Figliolo, come appunto egli promise la notte in cui fu tradito. Infatti disse: ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me, e anche voi mi renderete testimonianza perché siete stati meco fin dal principio. Vedete dunque, lo Spirito Santo è il Consolatore che il Figliuolo ci ha mandato da parte del Padre, è chiamato anche lo Spirito della verità che procede dal Padre. E essendo lo Spirito della verità, egli testimonia della verità. E lo Spirito Santo testimonia di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ed è stato mandato per glorificare il Figliolo. Infatti Gesù disse anche, come quando promise di mandare lo Spirito Santo: egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annuncerà. Quindi egli testimonia di Cristo, glorifica Cristo. Quindi lo Spirito Santo, ricordatevi, non glorifica se stesso. Lo Spirito Santo è stato mandato dal Signore Gesù Cristo per glorificare Gesù. Lo Spirito Santo, che vi ricordo è chiamato il Consolatore, ci insegna ogni cosa e ci ricorda tutto quello che Gesù ci ha detto. Infatti Gesù disse: queste cose v'ho detto stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che v'ho detto. Vedete dunque quanto sia, diciamo, importante l'opera che compie lo Spirito Santo, in base a quello che Gesù disse in merito allo Spirito Santo. Peraltro Gesù disse anche nella notte in cui fu tradito, dice così: pure io vi dico la verità, egli è utile che io me ne vada, perché se non me ne vo non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vo io ve lo manderò. E quando sarà venuto convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato perché non credono in me, quanto alla giustizia perché me ne vo al Padre e non mi vedrete più, quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Quindi vedete anche questa opera di convincimento che fa lo Spirito Santo quanto sia importante. Ora, lo Spirito Santo è stato mandato nei nostri cuori. Infatti dice così l'Apostolo Paolo ai santi della Galazia, quando dice loro: e perché siete figlioli, Dio ha mandato lo Spirito del suo Figliolo nei nostri cuori, che grida: Abba Padre, perché tu non sei più servo ma figliolo, se sei figliolo, sei anche erede per grazia di Dio. Notate che lo Spirito Santo grida: Abba Padre. Quando noi ci rivolgiamo dunque a Dio, e ci rivolgiamo a Lui chiamandolo Padre, ci dobbiamo sempre ricordare che ciò viene dallo Spirito Santo, che è chiamato anche lo Spirito del suo Figliolo. Peraltro è lo Spirito Santo testimonia insieme al nostro spirito che noi siamo figlioli di Dio. Vedete, testimonia. Dice così Paolo ai santi di Roma: poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito d'adozione, per il quale gridiamo Abba Padre. Vedete, là c'è scritto che grida Abba Padre, lo spirito grida, lo spirito del figlio di Dio grida Abba Padre, qui che noi gridiamo Abba Padre. Poi dice lo Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figlioli di Dio. E se siamo figlioli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui, affinché siamo anche glorificati con Lui. Notate dunque che cosa attesta lo Spirito Santo. E lo attesta insieme al nostro spirito, perché naturalmente anche il nostro spirito attesta che siamo figlioli di Dio. Ma qui vedete, dice lo Spirito stesso, attesta insieme con il nostro Spirito, che siamo figlioli di Dio. Ora, noi, rifletteteci, come facciamo a dire di essere figlioli di Dio? Perché il Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito Santo, che grida Abba Padre, ce lo attesta. Lo Spirito ce lo attesta che noi siamo figlioli di Dio. È chiaro che, essendo figlioli di Dio, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. E vi ricordo che l'eredità è per grazia, non per opere, per grazia! Noi esaltiamo la grazia di Dio, perché siamo stati salvati per grazia, siamo stati rigenerati per grazia, siamo stati santificati per grazia. Siamo stati veramente graziati. E noi, quindi, riconoscendo tutto ciò, noi vogliamo veramente celebrare l'Iddio d'ogni grazia, colui che appunto ci ha giustificati per grazia. È veramente meraviglioso il solo pensiero veramente che l'Iddio che ha fatto il cielo, la terra, il mare, tutte le cose che sono in essi, dall'alto della sua dimora, ha rivolto lo sguardo a noi e ci ha voluto fare grazia. Capite? Ci ha voluto fare grazia. Dunque, vedete, lo Spirito Santo che è in noi attesta che noi siamo figlioli di Dio. Ora, lo Spirito di Dio, che è chiamato anche lo Spirito del suo Figlio, è santo. Quindi il tempio dello Spirito Santo è un tempio santo. Capite? Quanto poco si parla di questo tempio nelle comunità. Sono sempre affaccendati a parlare di altri templi, dei loro templi che costruiscono, spesso con i soldi dello Stato, con i soldi di Cesare, che vanno a mendicare da Cesare, il quale appunto ce li ha tutti in pugno a queste chiese, e gli costruisce appunto i templi, i templi, sì, li chiamano templi, e loro stanno a parlare sempre dei loro templi, del loro tempio, che naturalmente deve essere il più grande del paese, perché poi c'è la gara tra questi sedicenti pastori a chi costruisce o a chi compra il più grande tempio. Sì, c'è anche questa gara, sono tutti in competizione tra loro e naturalmente per correre questa gara spolpano le chiese, stando sempre a chiedere soldi per costruire il loro tempio, o come lo chiamano loro, la casa del re dei re, benvenuti nella casa del re dei re. Ma perché? Quella è la casa del re dei re, ignoranti. Poi si offendono quando li chiamo ignoranti. Ma perché vi offendete? Lo siete. Lo siete. Cioè non leggete le scritture, non conoscete le scritture. Cioè, non sapete neppure che l'Altissimo non abita in tempi fatti da mano d'uomo. Cioè, non sapete questa cosa che è una delle prime cose che io ho imparato quando ho studiato le Sacre Scritture, quando ho cominciato a studiare le Sacre Scritture. Cioè, non conoscete nemmeno questo principio elementare. E allora ecco, fanno la gara a chi costruisce il più grande tempio. Poi dopo, quando ci sarà la dedicazione del tempio, e allora prenderanno quei passi, quei versetti dell'Antico Testamento dove si parla della costruzione del tempio di Salomone. E naturalmente quelle persone che andranno a questa dedicazione rimarranno ingannati dai loro discorsi pomposi e vuoti. Tempio costruito con, naturalmente, diciamo, sia con soldi di Cesare, ma anche con soldi presi in prestito. Sapete, no? Che chi prende in prestito è schiavo di chi presta, ma a questi non gli interessa proprio niente. Rendono le chiese schiave delle banche per costruire i loro templi, il loro beneamato tempio, ed ecco che mettono sulla testa, sulle spalle delle chiese dei mutui terribili, lunghi, diciamo non so quanti anni, comunque mutui di tanti anni, naturalmente poi vanno a prendere le vedove, vanno a prendere i pensionati per fargli fare da garante, pure questo, sì, pure questo avviene in queste comunità, perché devono costruire il Tempio, quello che loro chiamano il Tempio di Dio, la casa di Dio, la casa del Re dei Re. E dunque si indebitano veramente pesantemente per costruire appunto quell'edificio di mattoni. Peraltro talvolta avviene anche che questi edifici vengono costruiti con soldi, diciamo, che non sono puliti. Ma sapete, loro dicono che i soldi sporchi nelle loro mani vengono santificati, capite? Hanno pure questi il potere di santificare i soldi sporchi. Pensate un po' voi che potere che hanno questi malvagi, questi operai fraudolenti travestiti da pastori. Avvengono delle cose abominevoli in mezzo alle chiese, e denunciare queste cose è un atto di coraggio, ma è anche un dovere farlo, perché le cose stanno così. Poi dopo, quando scoppierà lo scandalo, quando queste cose si scopriranno, allora qualcuno timidamente dirà: ma Giacinto allora aveva ragione. Ma ho ragione, perché questi sono i fatti. I fatti. Comunque ci sarebbe molto altro da dire su questo argomento, che ho sempre avuto in cuore di trattare, perché oggi le chiese, invece di parlare del Tempio dello Spirito Santo, parlano del loro Tempio, che naturalmente poi rendono molto lussuoso. E poi naturalmente lo sponsorizzano a più non posso, perché è una sorta di centro di attrazione per le persone, perché loro ritengono che per attirare le anime al Signore Gesù, perché sapete che loro credono che loro attirano le anime a Gesù, ci vuole veramente un grande tempio, è per quello che costruiscono appunto questi grandi templi. Non hanno capito niente, questi sono proprio così ignoranti veramente, che anche veramente un bambino, ma io dico un bambino che si mette a leggere la Bibbia a 10 anni, può mettersi a confutarvi a questi qua. Ora dice Paolo che appunto il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in noi. Quindi vedete, fratelli nel Signore, Paolo parlava di questo tempio. Paolo non esortava a costruire templi fatti di pietre o di mattoni. No, no. Paolo ci teneva a spiegare ai santi che il loro corpo è il tempio dello Spirito Santo. E quindi vi stavo dicendo che questo tempio è santo. Capite? È santo perché è santificato dallo Spirito Santo. E quindi, essendo un tempio santo, va posseduto in santità ed onore, non va profanato. Il tempio dello Spirito Santo non ci appartiene. Non ci appartiene! È di Dio. E quindi dobbiamo stare molto attenti all'uso che facciamo del tempio dello Spirito Santo. Vedete, oggi in mezzo alle chiese c'è la moda di farsi tatuaggi, no? Ci sono, diciamo, degli scellerati e delle scellerate, perché ci sono anche donne ormai pastoresse dietro i pulpiti, che insegnano che non c'è nulla di male nel tatuarsi, nel farsi tatuaggi, dimenticando proprio che i tatuaggi, poi uno, un credente, li va a fare dove? Sul proprio corpo, che è il tempio dello Spirito Santo. Ora, io dico, ma come può essere che costoro che si dicono servitori di Dio, o che vengono reputati tali, com'è possibile che insegnano una tale scelleratezza? Cioè, sostanzialmente stanno insegnando a profanare il tempio dello Spirito Santo. Stanno insegnando ai cristiani ad andare veramente a sporcare proprio il loro corpo con questi tatuaggi. Ah, certo, sono biblici, loro dicono. Ascoltatemi, non vi fate ingannare da costoro. Aborrite i tatuaggi. È qualcosa di abominevole agli occhi di Dio, farsi tatuare il proprio corpo. Il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, quindi non va tatuato. Non va tatuato! E naturalmente, essendo appunto il tempio dello Spirito Santo, come vi dicevo, non può essere usato, diciamo, da noi come meglio crediamo. No, no. Il corpo va usato osservando i comandamenti che il Dio ci dà. Quindi ecco perché il corpo, per esempio, non va usato per compiere fornicazione. Infatti dice: fuggite la fornicazione. La relazione carnale illecita tra uomo e donna. Quindi la relazione carnale illecita tra uomo e donna si intende quella tra un uomo e una meretrice, come appunto l'Apostolo Paolo qui ci tiene a precisare, no? Dicendo: torro io dunque le membra di Cristo per farne membro di una meretrice? Notate come chiama le nostre membra di Cristo. E sì, perché chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Noi siamo di Cristo, le nostre membra sono membra di Cristo. D'altronde, noi, in quanto Chiesa di Dio, siamo chiamati, appunto, il corpo di Cristo. E allora, i nostri corpi sono membra di Cristo e non devono essere fatti partecipi, appunto, con la meretrice. Però ricordatevi anche che la fornicazione è la relazione carnale, per esempio, tra due fidanzati. Anche quella è fornicazione. Lo so che molti oggi non reputano, diciamo, la relazione carnale tra due fidanzati fornicazione. Però la parola di Dio così la chiama e così, appunto, quindi bisogna considerarla. Ma tanto si amano, ho capito, si ameranno pure, però appunto non devono unirsi carnalmente due fidanzati, fino naturalmente al giorno del matrimonio. Allora, nel momento in cui si sposeranno, allora avranno il pieno diritto di unirsi carnalmente, infatti dice diventeranno una sola carne. Però badate che la fornicazione, come dice l'Apostolo Paolo, è un peccato contro il proprio corpo, contro. Ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, dice l'Apostolo Paolo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. E vi ricordo che i fornicatori non erediteranno il regno di Dio, come non erediteranno il regno di Dio gli adulteri, gli omosessuali o i sodomiti, gli effeminati, gli oltraggiatori, i bugiardi, gli ingiusti, gli avari, i ladri, i bestemmiatori, i stregoni, gli ubriaconi, ci sono anche gli ubriaconi, gli idolatri, quanti idolatri ci sono. Dunque, dobbiamo considerare quindi l'importanza che ha agli occhi di Dio il nostro corpo. Ecco perché Paolo dice che noi non apparteniamo a noi stessi. Ogni tanto mi è capitato di vedere, durante, diciamo, determinate proteste che compiono in particolare le donne, no? Contro chi magari vorrebbe limitare, per esempio, la legge sull'aborto o abolirla. Ho letto dei cartelli, diciamo, che recitano così: il corpo è mio, ne faccio quello che voglio io. No, non è così. Non è proprio così. No, nella maniera più assoluta. Il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Noi non possiamo fare del nostro corpo quello che vogliamo. E quindi una donna deve considerare, intanto una donna in Cristo considera il proprio corpo il tempio dello Spirito Santo, come è giusto che sia, e considera quella creatura che in via di formazione nel suo grembo, appunto, una creatura che Dio sta formando con le sue mani, e quindi sa che quella creatura Dio la sta formando per farla nascere. E quindi una donna in Cristo si guarderà dall'abortire. Perché appunto una donna in Cristo teme Dio e osserva i suoi comandamenti, tra i quali c'è appunto quello che dice non uccidere. L'aborto è un omicidio, non è un diritto, ma è un delitto. E coloro che appunto uccidono queste creature sono degli omicidi, e gli omicidi non erediteranno il regno di Dio. Sappiatelo questo. Lo so che è molto impopolare parlare in questi termini, però la verità va detta con ogni franchezza, non importa se la maggioranza non gradisce la verità. Dunque, dice Paolo, poiché foste comprati a prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Certo, perché noi siamo stati comprati, comprati col prezioso sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Siamo stati riscattati a prezzo. Diciamo, siamo stati riscattati a prezzo. E allora, sapendo che siamo proprietà del Signore, dobbiamo glorificare il Dio nel nostro corpo. Quindi con il nostro corpo noi dobbiamo fare in modo che il suo nome sia glorificato. E questo, diciamo, riusciremo a farlo possedendo il nostro corpo in onore e santità. Perché questa è la volontà di Dio, come dice Paolo ai santi di Tessalonica, dice così: poiché sapete quali comandamenti vi abbiamo dati per la grazia del Signore Gesù, perché questa è la volontà di Dio, che vi santificate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani, i quali non conoscono il Dio. Vedete, noi predicando la santità del corpo, noi ci siamo attirati nel corso degli anni tanti insulti, da parte naturalmente di uomini e donne che si professano cristiani, perché costoro sono abituati a darsi a passioni di concupiscenza, no? come fanno i pagani, no? Se ne vanno al mare a mettersi mezzi nudi, si vestono le donne come le meretrici, perché bisogna dirlo. Bisogna dire anche questo, che ci sono veramente donne che si professano credenti, che a vederle per strada veramente assomigliano a delle meretrici, cioè hanno abiti da meretrici addosso. E poi si offendono quando mi sentono parlare in questi termini, ma un abito da meretrice si riconosce, eh? Non è che ci vuole molto per riconoscere un abito da meretrice, basta vedere come vestono appunto le meretrici. Eppure vedete, costoro poi sono coloro che ti vengono a parlare dell'amore di Dio, ti dicono che Dio è amore, ma loro, sapete, quando parlano dell'amore di Dio, non sanno neppure di cosa stanno parlando. L'amore di Dio per costoro è praticamente un falso amore, è quell'amore che dice fai come te pare. Sei libero di fare come ti pare. Per loro questo è l'amore di Dio. Ma non è assolutamente questo l'amore di Dio, poiché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Quindi vedete, costoro che amano, diciamo, il mondo, le cose che sono nel mondo, chiamano, diciamo, andare dietro alle concupiscenze carnali, alle concupiscenze mondane, che poi ci parlano dell'amore di Dio, ci stanno parlando di qualcosa che loro non conoscono, che loro rigettano, perché l'amore di Dio è che osserviamo i suoi comandamenti, e il Signore ha dato i suoi comandamenti tramite gli apostoli. Cosa ha detto l'apostolo Paolo? Questa è la volontà di Dio, che vi santificate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani, quali non conoscono il Dio. Costoro invece fanno proprio il contrario di quello che appunto il Dio comanda, e poi ci vengono a parlare dell'amore di Dio. Vedete? C'è molta ribellione oggi in mezzo alle chiese, eh? Proprio quelli che stanno a parlare del continuo dell'amore di Dio sono quelli che rigettano l'amore di Dio, perché rigettano l'osservanza dei comandamenti di Dio, che appunto Dio ci ha dato tramite gli apostoli, ma a costoro dei comandamenti degli apostoli non interessa assolutamente niente. Ma quelle cose erano per quel tempo, non sono più per noi oggi, non è così. Nella maniera più assoluta, la parola di Dio è vivente, è permanente, dura, perdura la parola del Signore. Non è parola d'uomo, è parola di Dio, e quindi i comandamenti di Dio sono tuttora validi, non è che sono sorpassati, come appunto ormai vengono presentati dalla maggior parte delle chiese. Appena sentono l'espressione comandamenti di Dio, subito ti accusano di essere uno che predica appunto l'osservanza della legge di Mosè. Ma noi non stiamo predicando l'osservanza della legge di Mosè, noi stiamo predicando l'osservanza dei comandamenti di Dio che Dio ci ha dato tramite i suoi apostoli, ma costoro detestano i comandamenti di Dio. Vedete? E poi, detestandoli, mostrano anche di detestare la grazia di Dio, perché i comandamenti Dio ce li ha dati per la sua grazia. Anche i comandamenti Dio ci ha dato, i suoi comandamenti Dio ce li ha dati per la sua grazia. Costoro disprezzano l'amore di Dio, la grazia di Dio, la santità di Dio. A loro non gli interessa niente di quello che gli apostoli hanno comandato. Se gli apostoli fossero in vita, li perseguiterebbero. Li perseguiterebbero. Dunque, sapendo che il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo, dobbiamo badare a noi stessi. Dobbiamo badare a noi stessi e possederlo in santità ed onore, santificandoci. Perché noi abbiamo per frutto la nostra santificazione. E vi ricordo a tal proposito che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Quindi questa mia predicazione ha lo scopo di ricordarvi quello che voi già sapete. Sapete, quello che faccio io, l'hanno fatto prima di me gli apostoli, perché gli apostoli ricordavano ai santi cose che essi già sapevano, perché gli apostoli gliel'avevano già trasmessi. E allora gli apostoli gli ricordavano le cose che gli avevano trasmesso, perché è molto facile dimenticare le cose che noi sappiamo, che noi abbiamo imparato, perché l'uomo tende a dimenticare. E allora c'è sempre bisogno di qualcuno preposto nel Signore che ricorda ai santi appunto ciò che è scritto. Dunque, fratelli nel Signore, glorifichiamo il Dio con il nostro corpo. Questa è la volontà di Dio. Non disprezziamo la volontà di Dio, non disprezziamo i suoi comandamenti, perché Dio è anche un fuoco consumante. Dio è un vendicatore. Se qualcuno pensa di poter fare del proprio corpo quello che vuole, sicuramente il Dio lo punirà, perché è colpevole. Essendo colpevole, Dio non lascia impunito il colpevole. Quindi poi, che non venga a presentarsi poi costui come il Giobbe, no? Perché poi questi qua profanano il proprio corpo, si danno alle concupiscenze carnali, fornicano e così via. Poi quando il Dio li colpisce, ecco che si presentano come se fossero Giobbe. Giobbe provato da Dio, il giusto Giobbe naturalmente, e loro ecco che si presentano come Giobbe. Ma questi qui non sono assolutamente come Giobbe. Quelli sono castighi di Dio, che Dio infligge a costoro perché profanano il loro corpo, che è il Tempio dello Spirito Santo. E quindi, giustamente, il Dio li castiga. È un castigo quello che costoro ricevono. I castighi di Dio sono tremendi, eh? Sono di vario genere, ma sono tremendi, e sono tutti quanti giusti. Quello che devono fare costoro che appunto violano i comandamenti di Dio è ravvedersi e convertirsi dalle loro vie malvagie. Chiedere per confessare i loro peccati al Signore e abbandonarli per ottenere misericordia. Perché, vedete, l'Iddio che castiga, l'Iddio che non tiene il colpevole per innocente, è un Dio misericordioso, pronto a perdonare coloro che si ravvedono, si gettano ai suoi piedi, diciamo in ginocchio, e confessano i loro peccati al Signore e li abbandonano. Il nostro Dio è un Dio pietoso, misericordioso. Presso di Lui v'è abbondanza di redenzione. Quindi noi non ci dimentichiamo mai che Dio è misericordioso. Lo abbiamo sperimentato nella nostra vita tante volte. Veramente il Signore è misericordioso. Ah, se non fosse stato per la sua misericordia, dove saremmo noi oggi? Allora, temiamo il Dio, osserviamo i suoi comandamenti e ricordandoci che appunto il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo e che noi non apparteniamo a noi stessi. Eh sì. E allora a chi apparteniamo? Apparteniamo al Signore. Siamo del Signore, siamo la sua proprietà particolare. Quindi, fratelli del Signore, santifichiamoci nel timore di Dio, perché la volontà di Dio è che noi ci santifichiamo, che noi veramente mettiamo le nostre membra al servizio della giustizia. Mentre eravamo sotto il peccato, mettevamo le nostre membra al servizio del peccato, ma ora non più. Perché? Perché siamo stati comprati a prezzo, siamo del Signore, il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.